Regina celi, letare, alleluia. Qui aquem meruis fit portare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.